look, sick look. Prendi la tua troia, prendi la tua troia, un uomo si ruola. Mi sta spaccando il DM, tutto il chiede DM, se le mando una foto. Vuole una foto. Ogni giorno una scarpa nuova, mando un bacetto a chi ci odia. Dark gang, siamo a Roma, per la tua troia siamo una droga. Ogni giorno scarpe nuove, ogni giorno mi frega un cazzo di chi odia. Metti un guinzaglio alla tua ragazza, ci vede e si comporta come una troia. Qualcuno faccia qualcosa, qualcosa. Di più ci siamo incazzosi, in giro pieni di droga. Chiamate le guardie a qualcosa. Qualcuno faccia qualcosa, io e Parex nella Toyota. Stiamo girando per Roma, prendiamo soldi, investiti e droga. La mia collana è una flashback, ti fa diventare miope. Sto in cima a una piramide, metto la tua gang su una lapide. Metto la tua gang su una lapide. Non mi capite, non mi capirete. Dicono un sacco di piatti veri, stanno tutti odiando sul 777. Forse perché abbiamo queste catene. Fumo 5 grammi per stare bene. Fumo 5 grammi appena mi sveglio. Mi lavo il viso, piscio e poi vado a prenderli. Pensavo a spenderli e poi riprenderli e poi rispenderli. PC mass media, posso scoparmi lei e la sua amica. Anche se c'è in stretto come una figa. Ora giallo come pica, ci fa pica pica. La tua collana finta come Gianzina. Mando un blunt, sembra una darcia. Fanta sparca al singhiozzo. Prendi la tua troia, prendi la tua troia, un uomo si ruola. Mi sta spaccando il DM, tutto il chiede se le mando una foto. Ogni giorno una scarpa nuova, mando un bacetto a chi ci odia. Dark gang, siamo a Roma, per la tua troia siamo una droga. Una droga, prendi la tua troia, le serve una museruola. Mi sta spaccando il DM, tutto il chiede se le mando una foto. Ogni giorno una scarpa nuova, mando un bacetto a chi ci odia. Dark gang, siamo a Roma, per la tua troia siamo una droga.